9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io. No, buongiorno, no, cari ascoltatori. Buon mercoledì 12/12/2012. La fine del mondo. Infatti, rinviamo persino il Festival di Sanremo. Ecco cos'era la profezia dei Maya. Perché c'è la Letizzetto che dice che Berlusconi ha rotto il cazzo. E allora ieri hanno deciso: non si fa più. Tutta qua era la fine del mondo nei Maya. Ma pensate, un anno senza Sanremo, che meraviglia! Si potrebbe andare tutti quanti, era che primavera. Vengo giorno a qualunque nelle cronache politiche italiane, retata al Ministero dell'Agricoltura, 11 arresti, 37 indagati, prendevano i soldi anche sulla pubblicità dei prodotti bioalimentari per i bambini. Arrestato l'amministratore delegato di Trenord a Milano, aperta l'indagine sui soldi, oimè, pure per i meeting di Rimini a quanto pare. Giorno ordinario, queste sono le cronache pubbliche. Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io, dice Beppe Grillo. Chi mi critica fuori dai C, la base risponde: sei come il D, che sarebbe come il Duce. Boh, A, B, C, D. Mi sembra che qui non ci siamo, però, con tutto rispetto perché si impegna il Movimento 5 Stelle. Il signor Casaleggio controlla dall'alto e voi dite che democrazia dal basso. Ma per piacere. Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. Vengo anch'io. No, no. Per vedere se la gente poi piange davvero e capire che per tutti è una cosa normale e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io. Pausa a proposito del funerale. Oggi su qualche giornale trovate in qualche riga una sentenza della Corte di Cassazione che dice che il signor Danilo Coppola, sì, Air Cash, quello dei capelli un po' strani, che nel 2000, era nelle vicende del 2005 bancari, immobilista romano, si è fatto poi un paio di annette di carcere, gli hanno sfasciato le sue società, hanno detto che era un ladro totale, per carità, lo hanno condannato fino a 6 anni di carcere. Adesso c'è una sentenza della Cassazione, in poche righe viene riportate, che dice che niente di tutto questo doveva avvenire, che il fallimento è stato praticamente pilotato dai pubblici ministeri, che la condanna è da cancellare, che tutto deve ricominciare da zero. Non è che lo prescrivono, ovviamente, dicono che la Cassazione non può entrare nel merito, ma insomma l'impero immobiliare sfasciato, le misure cautelari personali e il danno per centinaia di milioni inflittogli, tutto questo non doveva avvenire. È giustizia questa? Non lo so, è un personaggio molto discusso. Io ce l'ho avuto come editore, sono stato in un enorme imbarazzo e da questo punto di vista ovviamente non potevo difenderlo e mi sembrava pieno di pecche, ma detto tutto questo, quando ti uccidono e ti carcerano e poi 6 anni dopo ti dicono che ah no, i magistrati hanno sbagliato, tu che cosa fai? Dai la testa contro il muro? Ovviamente i casi della vita, vita amara però. Vengo anch'io a Napoli, ma perché? Perché no? Thank you. Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. Vengo anch'io. Allora, cari ascoltatori, buon inizio di trasmissione. Parliamo anche oggi di quello che avviene nell'Italia dei giorni tumultuosi del dopo ritorno di Berlusconi. Finalmente il giornale Libero hanno trovato la loro collocazione di sempre, in ginocchio di fronte a Berlusconi. Titolo di Libero di oggi: rivoluzione del PDL, dai Silvio, rottamali tutti, Berlusconi annuncia che non ricandiderà il 90% degli attuali parlamentari, è quel che vogliono gli elettori delusi, gente seria scelta da Berlusconi. Ma fateci piacere, per favore, cioè, la gente seria. Avete visto come ha reagito il Partito Popolare Europeo? Ma Berlusconi dice: più la Merkel mi attacca, più prendo voti. Vedremo. E Brunetta annuncia che è stato lui, con 238 slide mai smentite da nessuno, certo, perché il problema è prendere sul serio, che avrebbe convinto Berlusconi in prima fila. Ma ci mancherebbe, gente serissima, serissima. A proposito di gente seria, una bella intervista di Salvini, Matteo Salvini, Lega Nord, l'europarlamentare, segretario lombardo della Lega Nord per tanti anni in Consiglio Comunale a Milano. Matteo, cerchiamo di seguire la tua linea nella Lega. È un'intervista nella quale Matteo Salvini dice no all'alleanza della Lega con Berlusconi, ci riporta indietro, e così avevo capito anch'io che questa era la strada della nuova Lega di Maroni. Mai più Bossi, che è stato preso per i fondelli da Berlusconi per tanti anni e che si è contornato di Ladruncoli, e mai più secessione ma macro regioni e nord. Cosa c'entra Berlusconi con questa roba qua? È uno specchietto retrovisore se la Lega ci ricasca. Quindi io spero che Matteo Salvini e anche Tosi riescano a convincere Maroni a dire no a Berlusconi. È un capitolo chiuso quello, se la Lega vuole guardare avanti, se vuole tentare di ereditare nel nord i voti del centrodestra. Almeno questa è la mia personalissima opinione. Ricchi giornali di cronaca su questa terrore che sarebbe sparso all'interno del PDL sull'annuncio di 9 su 10 a casa e a seconda delle misure del giro vita e del giro petto, per i signori e per le signore, come ovvio. C'è qualche segno di parlamentari nel PDL che pensano di non seguire questa nuova follia, non si sa se perché non scelti o perché gli è venuto il dubbio all'ultimo secondo. Io spero che Crosetto faccia così, spero che Giorgia Meloni faccia così, non so dire di Franco Frattini, non so dire di tanti altri. Su questo Berlusconi, che detesta il suo partito e il rottama dopo che è figlio delle sue scelte e delle sue attività diurne e anche notturne, a dire la verità, è una delle peggiori storie che ci poteva essere regalata in questo fine legislatura. E dall'altra parte l'iniziativa di Berlusconi ci regala una serie di conseguenze del tutto inopinate, non solo perché priva il centrodestra ancora una volta di una rappresentanza europea che non sia di chi non ha niente a che vedere con il PDL. Questo è la mia opinione, e resta naturalmente molto complicato a costruirla, ma spinge anche Monti a diventare politico, appunto, e questa è una roba che secondo me fa a pugni con il carattere del Premier e che sta costringendo tutti un po' a una serie di salti mortali, perché sui giornali vedete Montezemolo e Casini che sono costretti ad aspettare innanzitutto lo scioglimento formale della legislatura per apprendere se Monti guiderà o meno questa formazione, e quindi passeranno ancora almeno 2 settimane, e capite che a quel punto mancheranno 10 giorni o quasi o poco più alla presentazione delle liste e delle firme, e non è proprio così secondario. Ma giustamente Mario Monti pensa al suo di calendario e inizia a fare battute, ma poco più, per così dire. Certo è che la leggerezza di un'Italia che si rifà, secondo me giustamente, so che molti di voi si arrabbiano, prendere a schiaffi dalla Germania e dal Partito Popolare Europeo fa veramente imbizzarrire. E tenteremo di parlare con i nostri ospiti, perché ci sono molti aspetti che non sono chiari in questa crisi. Innanzitutto dal punto di vista delle procedure parlamentari è una crisi che non mi convince per niente, perché c'è stato un annuncio di sfiducia, ma non sfiducia praticata da parte di Alfano, uno molto indipendente da Berlusconi, come è noto, a cui è seguita poi un annuncio di dimissioni da parte del Presidente del Consiglio, ma anche qui dimissioni che non sono avvenute. Dal punto di vista del Quirinale vogliamo dirlo che non è proprio uno spettacolo questo fine legislatura per il rispetto delle procedure parlamentari, e vabbè, voi direte figuriamoci, guardi il pelo nell'uovo, ho capito, ma sapete com'è, il rispetto delle procedure è forma e sostanza per una democrazia. e dall'altra abbiamo le conseguenze dei provvedimenti che non vengono votati per questa bella levata di capo del passo di Arcore, e quindi niente taglio delle province, niente pareggio in bilancio che pure era a complemento di quel fiscal compact, che chi è che l'ha firmato? Lui, quello che vi dice che l'euro è una buffonata, lui quello che dice che la Merkel si levasse dai piedi, lui che dice, ieri ho parlato con una persona, dice, ho avuto una telefonata a lungo con Berlusconi che mi ha detto che lui è vittima di un complotto della Deutsche Bank, gli ho chiesto ma te l'ha detto sul serio? E lui dice sì, serissimo. Capite? Ma il fiscal compact, come vi ricordate alcuni di voi, vero? Chi è che l'ha sottoscritto, condiviso, firmato? È lui, sempre, stiamo parlando sempre di lui, quello al quale molti di voi vorrebbero fare degli sconti, per così dire. Allora, vediamo di capire dalle vostre telefonate dopo, ma adesso con gli ospiti, almeno qualcuno di questi aspetti di questa strana crisi che ci consegna uno scenario inopinato tra il passato remoto che si pretende futuro e ciò che nessuno avrebbe detto, cioè il premier tecnico che diventa forse presente e futuro politico, e povero Bersani che si deve tutto in mano e che rimane ancora fortissimo, fortissimo più che mai nei sondaggi, che dice ma come, io ero pronto a mettere la patrimoniale, adesso devo qua capire se Mario Monti, il risultato regalo di un Berlusconi che invece volevo semplicemente come mio avversario, come due vecchi amanti, e questa volta l'avrei regolato io, due vecchi a contrasto, per così dire, un vecchio copione, e che questa volta avrebbe vinto il centro-sinistra. Peccato anche per questa brutta caduta di Grillo che ho già commentato, perché svela secondo me qualcosa di quel movimento sul quale sarebbe il caso di riflettere, e lo dico con rispetto per i molti che ci si impegnano, però le parole di Grillo di ieri non sono esattamente quello che uno si aspetta da chi vuole rifondare la partecipazione politica dal basso. Gli ospiti, cominciamo con il professor Tommaso Edoardo Frosini, che insegna diritto pubblico comparato all'Università Orsola Bene in casa di Napoli. Buongiorno professor Frosini. Buongiorno a lei. È la mia candidata ideale per fare il ministro dell'economia nel nostro paese, l'ho già detto una volta, quindi lo ripeto semplicemente. La professoressa Esther Faia, che insegna alla Goethe University di Francoforte, insegna politica monetaria ed è editorialista anche per Panorama. Buongiorno Esther. Buongiorno, grazie dell'invito e complimenti per la libertà di stampa. Sì, finché la diciamo me la consentono, perché pubblico in ascolto, guardate che tra pochi giorni finisce il mio contratto, però c'è nessun problema, nessuno è indispensabile, a cominciare da Berlusconi, figuriamoci il sottoscritto. Allora, Faia, posso chiederle, da italiana quanto è colpita, un po' incazzata, non lo so, ecco, di quello che sta succedendo nelle sue lezioni mattutine a Francoforte? Capita che qualche studente faccia caso al fatto che l'italiana le chieda qualcosa, oppure semplicemente qualche occhio inarca il sopracciglio in maniera ancora più beffarda e lei a quel punto fa finta di non essere italiana? No, davvero, come si vive in questi giorni lì con questa idea che l'Italia che si copre di ridicolo? Con grande vergogna, come tutte le volte che succedono queste cose, ma questa volta più che in ogni altra occasione, ovviamente lo chiedono tutti, perché ha gettato tutto il mondo nella disperazione questa cosa. Bisogna pensare, ho già detto altre volte, che la Germania è già fortemente esposta ai paesi mediterranei, 700 miliardi anzi di più sulle target 2 e per 200 sul fondo salva stati, quindi sta già portando una zavorra pesantissima, ha consentito a Draghi, che gode di una reputazione fortissima in tutto il mondo e anche in Germania, ma è abbastanza unanime, ha consentito a Draghi di gestire la possibilità di offrire ulteriore liquidità che la BCE ha già fornito, ma ovviamente tutti portano una zavorra fortissima e come tutte le zavorre, quando diventa pesantissimo a un certo punto qualcuno la molla, questo è la parte naturale di quello che potrebbe succedere. Allora, nel frattempo, movimenti a tavoletta degli ascoltatori. A tavoletta uno ha messo il dito centinaia di volte dicendo che sono servo del sistema, perché non devi permetterti di criticare il Movimento 5 Stelle. Dopodiché, servo della Lega, un altro che ha messo il dito sul telefonino dicendo che non mi devo permettere di dire che ha ragione Salvini, perché ha ragione Bossi. Qui ci sono addirittura bossiani in ascolto. Dopodiché, servo naturalmente del PD, perché non mi devo permettere di parlare in questo modo di Berlusconi. Vabbè, se uno è servo di tante casacche, vuol dire dire che forse non è servo di nessuno. Faia, però, al di là di tutto e al di là delle battute e del, diciamo così, disonore temporaneo per sentirsi come italiani compartecipi di questo processo di autoderisione all'estero, come se non mancassero gli argomenti concreti di debolezza dell'Italia, ma poi di fatto dal punto di vista istituzionale, dal punto di vista delle colonne della Deutschland AG, per così dire, qualcuno è davvero stupito oppure semplicemente siamo in un corridoio fino alle elezioni tedesche del prossimo autunno, di fine anno prossimo, per il quale davvero la Germania, al di là delle chiacchiere italiane, ma in realtà non mette in conto nessun rischio vero, perché non ce lo si può permettere dal punto di vista degli interessi elettorali tedeschi che ci sia un rischio vero nell'euroarea? No, il rischio vero lo mettono in conto, voglio dire, anche da parte mia come italiana posso, diciamo, e voglio e faccio qualunque sforzo per convincerli che non sia così, laddove vengo interpellata, ma si rendono conto benissimo che c'è un rischio vero, quindi non possono a questo punto negare ulteriormente i fatti, perlomeno se le cose vanno avanti così. Guardi, quello che lei ha detto prima è la cosa fondamentale, cioè siamo in un periodo in cui tutto il mondo, ma a maggior ragione in Italia, ci si aspettava come assolutamente naturale ed obbligo un ricambio non soltanto generazionale, ma un ricambio serio su verso persone più competenti, soprattutto dal punto di vista dell'economia, verso persone che avessero una reputazione internazionale, e non che gli italiani non ce l'hanno, cioè gli italiani all'estero sono le punte di diamante delle migliori università straniere. Draghi è stato consacrato a Jackson Hole come il banchiere del secolo, quindi voglio dire, gli italiani hanno una reputazione di questo tipo all'estero, e i paesi, diciamo, come la Germania, ma in realtà tutti i paesi della euroarea, perché anche la Spagna si sta, diciamo, sorprendendo, non riescono a capire come in Italia non si riescano a valorizzare queste risorse, a diciamo metterle in campo e a fare un vero cambiamento, perché guardi che tutta questa diciamo questo dramma è successo dal fatto che gli italiani hanno capito tramite anche delle primarie che o meglio gli stranieri hanno capito anche tramite le primarie che non si voleva un reale cambiamento, questa è la verità, da entrambi gli schieramenti, quindi è quello che ha iniziato il tutto. Allora, io la prego di restare ancora con noi, nel frattempo una riflessione invece, spostiamoci sugli aspetti, diciamo così, politico-istituzionali col professor Frosini. Se ne sono viste tante di crisi anomale, questa arricchisce, per così dire, il panorama delle singolarità parlamentari in questo paese, che continua ad avere una forma di governo un po' a cavallo. In Costituzione ha una forma di governo parlamentare, di fatto c'è leggi elettorali maggioritarie di diversa impronta, in realtà viviamo il principio della democrazia carismatica, dall'interpretazione dei poteri del Presidente della Repubblica fino ai capi partito che rivendicano orgogliosamente il diritto di scegliere e mandare a casa loro abolendo gli elettori. È un po' pastrocchio, diciamo, professor Frosini, o no? Sì, è un pastrocchio come sempre stato, ahimè, perché è vero che la Costituzione prevede che per sciogliere le Camere ci debba essere un voto formale di sfiducia da parte delle stesse nei confronti del governo, ma questo non è mai avvenuto, salvo una volta sola nel caso Prodi, il quale dovette andare a casa a seguito di un voto di sfiducia. Altrimenti tutte le crisi che ci sono state nel nostro Paese, a partire dalla entrata in vigore della Costituzione repubblicana, sono state crisi extraparlamentari, cioè che non si sono manifestate attraverso un voto di sfiducia. Paradossalmente questa crisi che oggi stiamo vivendo con le annunciate dimissioni del Presidente Monti è identica a quella di un anno fa del governo Berlusconi, perché anche Berlusconi andò al Quirinale, annunciò e promise le dimissioni, ma non le diede formalmente, e né tantomeno il Parlamento votò una sfiducia, anche perché la maggioranza parlamentare era, sia pure in modo risicato, ancora a favore del governo Berlusconi. Quindi, come dire, stiamo rivivendo sul piano, diciamo, della tecnica parlamentare e della formulazione costituzionale un episodio già vissuto un anno fa e vissuto tante altre volte nella nostra storia costituzionale. E purtroppo, come dire, non si è mai riusciti veramente a dare seria applicazione alle regole costituzionali, perché sono quelle che contano veramente, e il Parlamento si è sempre, diciamo, sfilato all'idea di voler votare una sfiducia, ma piuttosto appunto per il tramite di dichiarazioni dei leader politici. I Presidenti del Consiglio hanno preso atto del fatto che stava venendo meno la maggioranza, sono andati al Quirinale e si sono dimessi. In questo caso le dimissioni sono, diciamo, posticipate dopo l'approvazione della legge di stabilità e credo anche della conversione del decreto sull'IVA. E questo, come dire, si ripete, ahimè, uno scenario che nel sistema costituzionale italiano ormai è da sempre presente, tant'è che lo possiamo considerare quasi una regola della Costituzione materiale. Senta, le province che dopo tanti anni sembravano 35, io ci avevo riso sopra dicendo che mi sembrava un criterio del tutto del piffero, adesso neanche quelle 35, ma in più scatta il taglio però della sottrazione delle attribuzioni, quindi restano in piedi ma senza attribuzione dal 31 dicembre, il pareggio del bilancio che non si fa e quindi il criterio con il quale distinguere quali fossero davvero le modalità per le eccezioni rigorosamente identificate ex ante al principio del pareggio del bilancio, naturalmente non ci sarà con la politica che resta a mani pulite dal punto di vista istituzionale, diciamolo, questo governo Monti è stato anche lui però deficitario, o no? Ma senz'altro, io credo che il governo Monti abbia provato in tutti i modi a cercare di svolgere un'azione di indirizzo politico coerente con i suoi intenti e con il mandato che aveva ricevuto dal presidente Napolitano. Ricordiamoci, a proposito della Costituzione materiale, mi consenta una battuta, nel caso della nascita del governo Monti è come se la nostra Costituzione fosse stata riscritta all'articolo 94, cioè quello che consente la nascita del governo, e ci fosse stato scritto il governo deve avere la fiducia dei mercati dell'Unione Europea. Cioè è chiaro che Monti nasce su un impulso e un input che non è parlamentare, ma è chiaramente un po' presidenziale per scelta di Napolitano, ma soprattutto per volontà dell'Unione Europea e dei mercati. Lui ha provato a ridisegnare l'indirizzo politico sulla base di questo impulso che gli era venuto appunto da questi soggetti e ha fatto il possibile. Ora francamente credo che, insomma, anche l'idea di ridisegnare le province, di sopprimerle, di accorparle, era un'idea, diciamo, funzionale a un disegno di razionalizzazione economica innanzitutto, ma direi anche istituzionale del nostro sistema. Poi, ovvio, se chiedono l'eccezione di costituzionalità è chiaro l'intento di bloccare il provvedimento, perché naturalmente i tempi si allungano, ormai siamo alle soglie dello scioglimento e quindi è impossibile che si possa dare attuazione a quel provvedimento. Io comunque, insomma, un bilancio di questo governo è comunque, la si pensi, diciamo, a prescindere, diciamo, da quelli che possono essere gli orientamenti politici, un bilancio tendenzialmente positivo, direi cautamente positivo, nel senso che il governo ha cercato di fare il possibile e tutto sommato, nonostante l'aggravio di tasse, l'eccesso di pressione fiscale, sulla quale ovviamente possiamo discutere e lei, come dire, è un suadente convincente, diciamo, teorico di questo eccesso di tassazione che si è venuta a produrre nel nostro paese, ma io direi che comunque è un bilancio positivo in un periodo sicuramente emergenziale sul piano del sistema politico, partitico e costituzionale. Domanda finale per Esther Faia, ma ai tedeschi è davvero ipotizzabile, cioè si riesce a spiegargli come equalmente i capi politici, o sono singolari capi apolitici come Berlusconi da 20 anni a questa parte, oppure deragliano dalla loro missione fondamentale, tanto che bisogna sperare che sia un professore, ex membro di Commissione Europea, che non si è mai candidato a nulla per indole, freddo e gelido eccetera eccetera, a rappresentare la salvezza dell'Italia. Cioè mediamente a un membro delle classi dirigenti tedesche questo ragionamento sembra un ragionamento che porta alla salvezza di un'Italia con molti difetti, o sembra semplicemente il paradosso di un paese Arlecchino e Pulcinella? No, penso che, diciamo, la mia sensazione è che non capiscano in primis la dicotomia tra le due cose, nel senso che in Germania Innanzitutto, questo si collega a quello che dicevo prima, non in maniera dirompente e drammatica come in Italia, ma c'è un affiancamento delle competenze nuove e dell'esperienza. Queste competenze nuove sono tutti economisti quarantenni, basta vedere Asmussen, basta vedere Weidmann, basta vedere il consiglio di Schäuble, sono tutti quarantenni che hanno studiato negli Stati Uniti, che hanno fatto delle esperienze internazionali e che tornano in Germania a servire il proprio paese. Quindi non c'è una dicotomia di fatto in Germania tra la politica e gli economisti di altissimo livello, che però con pragmatismo sono anche pronti a servire la policy e a fare da consulenti del consiglio di Schäuble piuttosto che nei cinque saggi, eccetera. C'è sempre stato in realtà un connubio molto forte, perché il consiglio economico della Merkel è sempre esistito, tra gli accademici di altissimo livello e i politici, cosa che in Italia non c'è, nel senso che i consiglieri economici dei partiti in Italia di solito sono persone che non sono riuscite come economisti e quindi vanno a fare i consiglieri economici, oppure c'è il governo di tecnici che appunto ovviamente uno può in alcuni casi criticare la mancanza di esperienza del contatto con la politica. Qui l'esperienza è una cosa che si fa innanzitutto come consigliere, e ripeto, l'affiancamento in Germania deriva dal fatto che le persone con l'esperienza sono quelli che con le spalle larghe portano il peso della rappresentanza e del dialogo e della contrattazione in Europa, ma la politica economica, le idee, l'innovazione derivano fondamentalmente da una classe di quarantenni che spinge e che ha spazio. Allora, la mia opinione è che quando vedrete un politico italiano che convince un po' di economisti brillanti, è stata candidata anche lei al Consiglio dei Saggi in Germania, come Esther Faye, a venire in Italia e assumere direttamente incarichi di prima o seconda fila, allora ci saremo. Fino a che sarà Berlusconi a decidere col girovita, vuol dire che non ci saremo. E l'Italia fa bene essere derisa a quel punto dal mondo. Chiunque, c'è una fortissima reazione da ieri di lettori e di ascoltatori, voglio dire, che tornano a usare termini molto pesanti, dicono: io non mi devo permettere, io mi permetto pochi giorni in cui ancora vado in onda quello che voglio nei confronti dei giudizi, a meno che non ci siano cose penali, perché penso che sia così grave quello che sta per l'ennesima volta avvenendo che bisogna stimolare con parole urticanti la diversa sensibilità che io rispetto di ciascuno a ragionare su questa cosa buffonica che è in atto, che non ha a che vedere con la politica ma con la clinica. Questa è la mia opinione, e finché sto qua, per pochissimo ancora, sarà l'opinione che vi do. Sentiamo un paio di telefonate rapide con Filippo da Palermo. Prego Filippo, come la pensi? Buongiorno Giannino. Io penso che uno scenario possibile che si potrebbe venire a creare, visto le premesse che il Partito Democratico appoggia Monti, l'ho appoggiato in questo anno, e il placet di Napolitano, che chiaramente ha sempre avuto, cioè è stato lui che poi ha messo Monti al governo, lo scenario potrebbe essere quello che Monti va a fare il Presidente della Repubblica, visto che scade il settennato di Napolitano, e Bersani diventa Presidente del Consiglio, perché è quasi sicuro che vincerà la sinistra naturalmente, e quindi forse l'Europa anche in questo caso resterebbe contenta di questa scelta che andrebbe bene, credo, a molti. Allora, io credo anche, il problema non è tanto l'Europa è contenta, però il problema è che credo anch'io che oggi Guerrero Bersani non rappresenterebbe affatto qualcosa di fronte a cui l'Europa sussulta dopo Hollande, e per di più un governo Bersani con centristi potrebbe mettere la patrimoniale senza che i tedeschi si arrabbiassero. Anzi, se gli italiani mettono la patrimoniale aggiuntiva alla pressione fiscale, i tedeschi sono pure contenti, perché ci autodanneggiamo, perdonate. Roberto da Milano, come la pensa Roberto? Sì, buongiorno a lei signor Giannino. Una prima raccomandazione: tenga duro, perché nonostante le critiche che sento le piovono addosso da tutte le parti, ovviamente, e forse come ha detto prima, una riconferma che un po' di ragioni lei quando parla sicuramente le ha. Detto questo, io ritengo che il ritorno in campo di Berlusconi sia un disastro totale per il paese, e lo dice uno che nel 94 ha creduto fortemente nel suo ingresso in campo in quanto personaggio non politico che si affacciava finalmente sulla scena italiana. Quindi in questo momento io ritengo che questa sua mossa sia assolutamente infelice, e secondo me, valutando anche le reazioni di oggi, cioè dopo ieri, ieri c'è stato un primo momento di shock, diciamo, sì, alle sue affermazioni. Oggi, se andiamo a vedere i risultati di borsa, i dati di borsa e di spread e quant'altro, a quanto pare lo scontano già come l'uscita di un folle, perché altrimenti, se fosse ritenuto, diciamo così, credibile, si sarebbe rimasti sulla, diciamo, l'allarme delle prime ore. Esatto, sì, infatti. È come dire, vabbè, ma questo tanto, cioè, praticamente è ininfluente l'uscita di uno che ha perso la bussola completamente. Allora, ci ha raggiunto Alessandro Barbera della Stampa, uno di quelli che ha puntato il dito ieri sul bilancio dei provvedimenti che rimangono a metà per queste poche settimane in meno di legislatura, ma in quelle poche settimane si potevano però votare dei provvedimenti che erano importanti, tra cui quello a cui abbiamo appena accennato prima, quello del pareggio del bilancio. Allora, buongiorno e grazie Alessandro Barbera. Quali sono le tue opinioni sulle misure che restano a metà? Perché questa roba del pareggio del bilancio poteva sembrare semplicemente un principio, ma invece avrebbe avuto conseguenze concrete, oppure no, era sopravvalutato secondo te? Ma buongiorno, intanto, conseguenze concrete, diciamo, sulla vita di tutti noi, ovviamente no, nel senso che il pareggio di bilancio di fatto è una cosa che noi già a cui tendiamo con i provvedimenti del governo. Il problema è la credibilità del governo. Qui non stiamo solo mettendo a repentaglio misure che avrebbero, la gran parte delle misure che il governo Monti aveva messo in cantiere in questo anno di governo, come ad esempio il taglio delle province e tutti i decreti attuativi che non verranno fatti e che nel frattempo nei ministeri si stava lavorando, ma stiamo mettendo a repentaglio anche la nostra credibilità, perché il principio del pareggio di bilancio era la dimostrazione agli occhi della comunità internazionale, dell'Europa, che noi finalmente eravamo diventati un paese virtuoso. Di tutti i danni che Berlusconi poteva fare con la sua, come dire, decisione di tornare in campo e di buttare al macero il governo Monti, forse questa è la più grave di tutte. Ci credi all'ipotesi di Monti che diventa capo politico? Non lo so se Monti alla fine lo farà. Bisogna capire anche se Berlusconi effettivamente poi, di fronte a questo fuoco di sbarramento che sta trovando dentro al suo partito, in gran parte della Lega, nella comunità internazionale, nell'Europa, dagli Stati Uniti, poi alla fine non decida di fare, come dire, un passo indietro e di capire che probabilmente, come cercare di dire, stavo scherzando, forse in realtà forse mi avete preso sul serio, non era vero quello che vi stavo dicendo. Se dovesse invece decidere di andare avanti, beh, insomma, per Monti la tentazione potrebbe diventare molto forte, anche se in realtà l'uomo sarebbe una grossa forzatura allo stile al carattere. Il suo carattere è alieno, non si è mai candidato a niente, è convinto che tutto gli sia dovuto per i suoi meriti. Non lo vedo capopopolo e non lo vedo neanche, tra l'altro, mai candidato al Quirinale. Non gliene frega niente di mediare tra i partiti per 7 anni. Questa è la mia singolare opinione. Questo non lo so se il Quirinale non gli piacerebbe. Beh, c'è chi dice che il suo sogno segreto sia l'unica sua vera ambizione, oltre a quella di eventualmente rifare il Premier, è quella di diventare presidente della Commissione, esatto, presidente del Consiglio, esatto, europeo, e di essere il successore di Herman Van Rompuy al Consiglio europeo. Non lo so, le circostanze ormai siamo in una fase in cui tutto è talmente incerto, tutto è talmente difficile, che ogni giorno porta con sé delle incredibili sorprese. Quindi non mi stupirei di nulla, nemmeno che lui alla fine accetti di diventare il capo di un partito. Naturalmente poi il punto è un altro, il punto è se il partito di Monti eventualmente sarebbe in grado di prendere così tanti voti, esatto, da essere effettivamente capace di togliere consenso a Berlusconi e quindi portare acqua al mulino di un eventuale governo, diciamo, Bersani centristi. Anche questo è tutto da vedere. Comunque, certo, che Berlusconi riduca il tutto col suo pugno sul tavolo, invece che ricostruire un'offerta politica dal basso, come il sottoscritto modestamente diceva da 2 anni, e tenterà una piccola cosa al prossimo elezione a fermare il declino, ma si riduce alla riscelta dall'alto, tanto che dobbiamo implorare il taxman Monti a rappresentare la salvezza, è un altro paradosso di a che cosa porti la logica malata di Berlusconi Silvio, l'uomo che vuole farsi re, ma no. Oh, ma che re. Ah, poveri noi. Allora, oggi dedichiamo la voce di Jim Morrison, This is the End, alla nuova campagna lanciata sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. Adotta un angelino, Angelino Alfano, un leader smarrito su una specie di questo eterno tragitto per Santiago da Compostela. È stato solo un tragitto in ginocchio verso l'autoespiazione, quello della sua segreteria del PDL. Si è anche dimenticato che cosa deve fare, ha convocato e sconvocato primarie, poi si è alzato dicendo Berlusconi basta, poi è andato in Parlamento dicendo Berlusconi sempre. Adottiamo un angelino, ma ha ragione per una volta. fatto in prima pagina, a non usare toni durissimi, li fa col sarcasmo, però voglio dire, un leader politico il cui bilancio è che va bene sempre quello che dice Berlusconi, che leader politico è, ragazzi? Comunque, sentiamo ancora un paio di telefonate. Fabrizio dalla provincia di Pesaro, prego Fabrizio. Buongiorno dottor Giannino, forse sarò un po' off topic e forse sarò anche un po' tranchant, però perdonatemi, ma qui si sta parlando del nulla, nel senso che il panorama politico delle prossime elezioni è veramente triste e pieno di amarezza. Lo dice uno che ha votato sempre per Berlusconi, liberale convinto, centrodestra convinto. Sono andato a iscrivermi alle primarie, non mi hanno fatto votare per Matteo Renzi, perché la nomenclatura di quel partito, di quel vetero partito, non me lo ha consentito. Ma eravamo in tanti ai seggi, con la storiella delle regole, eccetera, eccetera, eccetera. Lo so. Allora, il panorama è triste, ci ritroveremo con una legge elettorale allucinante che produrrà politici allucinati che sono gli stessi che ci sono adesso, quindi io sto aspettando solamente la risposta del mio legale che mi dica se bruciando la mia tessera elettorale andrò a incorrere in sanzioni penali o amministrative, perché è l'unica forse forma di protesta civile che io posso fare, posso invitare i miei coetanei. Io ho 39 anni, sono un imprenditore, lo faccio con tantissime difficoltà, questa cosa la dissi anche a Cruciani, sto aspettando la risposta del mio legale che si sta documentando, perché mi creda, l'unica cosa che posso fare è rinunciare civilmente al voto, ma perché potrei andare a votare? Cioè, vi rendete conto che oggi si discute su che cosa farà Casini? Ma che cosa ha dato al paese Casini? Scusi, mi perdoni, ma Benedetto della Vedova, facciamo nomi e cognomi, no? Cioè, c'è gente che va in televisione e parla di cose. Fabrizio, 18 anni di leggi di scelta dall'alto producono effetti paradossali. Comunque, una firma, per esempio, per presentarsi e fermare il declino la può dare, magari si può anche candidare. Non ne devo parlare qua, però questa potrebbe essere una soluzione. Piccola, testimoniale e pressoché suicidaria, come sono le cose che faccio io. Saverio da Padova, prego Saverio. Buongiorno, dottore. Sì. Niente, volevo dire una cosa. Partendo dal presupposto che l'area dei moderati in questo paese è la maggioranza, ma con questa politica che si sta delineando non sa dove andare, perché da una parte abbiamo Berlusconi, il rientro di Berlusconi, con Alfano che non ha avuto il coraggio, la forza di staccarsi dal padre padrone, dall'altra abbiamo Bersani che per andare avanti si attacca all'estrema sinistra, e poi se consideriamo le dichiarazioni ieri di Peppe Grillo, le prossime elezioni vincerà un grande movimento, quello dell'astensionismo. Questa è una ipotesi forte e non so dire, la mia domanda finale per il flash a Alessandro Barbera è: ma Monti è in grado di trasferire un po' di milioni di voti dall'astensionismo al campo di una scelta così ragionevole e ingessata come quella che rappresenta, secondo te? Se deciderà di candidarsi deve fare una piccola rivoluzione di se stesso. Ieri ho intervistato Alastair Campbell, l'ex guru di Tony Blair, il quale diceva una cosa secondo me molto acuta. Cioè, Monti finora è stata una persona che è stato premier perché glielo abbiamo chiesto in nome dell'emergenza, gli abbiamo chiesto adesso per favore, invece. E adesso invece deve farsi politico, e per farsi politico non può solo dire come ha fatto fino ad oggi: in questo momento dovete fare sacrifici. Ma ok, stop, 24. A domani.